America 24 di Mario Platero. That's why I proposed to cap government spending over the next 3 years. Spending related to Medicare, Medicaid, Social Security, and our national security will not be affected. But all other discretionary government programs will. Buongiorno da New York, Mario Platero, benvenuti ad America 24. Abbiamo ascoltato la voce del presidente Obama che sta promuovendo il suo bilancio 2011 a Nashua in New Hampshire. Ha parlato, come avete sentito, della necessità di tagliare 1.000 miliardi di dollari. Fosse facile, possiamo tagliarli, dice, con la riforma sanitaria. Obama ha anche presentato un pacchetto da 30 miliardi di dollari per le piccole e medie imprese che dovrebbe rilanciare l'occupazione. Ecco, però, in questo suo tentativo di focalizzare l'attenzione politica sul fronte interno, Obama è stato aggredito da parole durissime in arrivo da Pechino. Perché questa volta? Perché dopo gli attacchi su Google, sulle vendite di armi a Taiwan, un nuovo attacco da Pechino? Beh, perché Barack Obama ha detto che incontrerà il Dalai Lama, lo doveva incontrare già prima del suo viaggio a Pechino dell'anno scorso, poi cancellò la visita per non irritare i leader cinesi. Adesso da Pechino si dice: guai se vedrà il Dalai Lama, le relazioni fra Stati Uniti e Cina andranno malissimo, dobbiamo preoccuparci. Elizabeth, well, good morning. Heated words out of China. Do we have to worry? Well, Mario, I don't think so. I think all we're seeing right now with this ratcheted up rhetoric between the United States and Beijing. Non dobbiamo preoccuparci, dice Elizabeth Economy, direttore del Centro Asiatico del Council on Foreign Relations a New York. Plus ça change, la retorica di ieri rivela la vera relazione di sempre fra Cina e Stati Uniti, che resta fondamentalmente conflittuale e non cooperativa. Del resto, quando sono stato in Cina al seguito del presidente Obama, abbiamo visto il tentativo della politica della mano tesa. I consiglieri del presidente si illudevano di poter cambiare la relazione, e così lo stesso Obama ha detto che gli USA consideravano il Tibet parte della Cina, molto accomodante, ha anche parlato poco di diritti civili, di tasso di cambio, che sono due chiodi fissi americani che poi hanno conseguenze incendiarie per Pechino. Ma la risposta cinese è stata: non siamo pronti a un nuovo rapporto. Le relazioni vanno bene così, con un po' di conflitto. E dunque Obama ha fatto uno sforzo, non è stato restituito questo sforzo, il presidente non ha ottenuto nulla in cambio, e beh, adesso ci si toglie i guanti. But I think beginning with President Obama's visit actually to China. E dunque Elizabeth ci fa un riassunto del deterioramento progressivo di quella che doveva essere una relazione così molto idilliaca, a partire appunto dalla visita di Obama in Cina, poi Copenaghen per l'ambiente, poi la censura a Google, poi le vendite di armi a Taiwan, e quindi entriamo in territorio molto più recente, poi nessun progresso in Iran e adesso la visita del Dalai Lama. Tensioni che si sono tutte accavallate e che formano, ci dice, una perfect storm, una tempesta perfetta. I mean, look, the Chinese are not buying US debt. Nella tempesta si naviga, però i cinesi, dice Elizabeth, non comprano i nostri buoni del tesoro perché ci fanno un favore, li comprano perché ne hanno bisogno. E dunque, come avviene da anni, ci sono due livelli nella relazione con la Cina: quello della retorica politica apertamente conflittuale quando si parla di diritti civili e di democrazia, quello pragmatico quando si parla di economia e di finanza. Il G2, che sembrava nascere a Pechino con la mano tesa di Obama, è finito prima di cominciare. E la Cina? Beh, con la Cina noi occidentali andremo avanti lungo questi due binari: tuteliamo la nostra coscienza con il dissenso su libertà civili, e dunque bravo Obama che incontra il Dalai Lama, e tuteliamo invece i nostri interessi con il pragmatismo del business. Gli affari, dopo tutto, sono affari. You're a part-time lover and a full-time friend. So guess what? What? I don't know. I'm pregnant. Un brano musicale e un dialogo tratti da Juno, il film che ci racconta di una 14enne che resta incinta. Perché ve lo propongo? Beh, dobbiamo fare un passo indietro e tornare al bilancio. Oggi l'America dibatte non soltanto sanità, disoccupazione e altri gravi problemi economici nazionali, ma una voce inserita da Obama che stanzia 114 milioni di dollari per programmi che contribuiscono alla diminuzione delle gravidanze fra gli adolescenti. In America le gravidanze sono gravidanze non volute, sono 740.000 all'anno per giovani fra i 15 e i 19 anni. E allora astinenza o contraccettivi. Il dibattito si riduce a questo. Perché? Perché Bush spendeva 178 milioni di dollari per l'astinenza, lezioni, prediche, guai a farlo, malattie, gravidanze, umiliazioni. Obama invece ha cancellato l'astinenza. Il suo sarà un programma misto e spenderà solo 114 milioni di dollari. E allora, castità o prevenzione? Sentiamo Bill Albert, capo della National Campaign for Prevention a Washington. We think teens need to be encouraged, particularly very young teens. Salomonico Albert dice che tutte e due le tecniche funzionano e definisce il piano Obama storico, ma non tutti sono d'accordo, ovviamente, per questo il dibattito, un dibattito che ci ricorda alla fine la frattura fra due grandi Americhe, quella intellettuale, liberale del nord-est o della costa west della California, quella più religiosa, conservatrice, tradizionale delle grandi pianure o del sud, insomma della grande America centrale, un'America che è divisa fra naturalisti e sacralisti, proprio come li aveva catalogati nel suo saggio Sex Goes to School la sociologa di Berkeley Christine Looker. E alla fine siamo d'accordo con lei, l'imprinting della famiglia, degli amici o dei programmi come Teen Mom o di MTV influenzano molto di più le abitudini sessuali degli adolescenti che un bel voto nel corso di educazione sessuale. Insomma, lo sappiamo, la moralità comincia prima di tutto a casa. Ci sono mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Eccone alcune: fede e pugni. Per attirare nuovi fedeli, le chiese evangeliche americane hanno deciso di organizzare corsi di arti marziali. Solo a New York sono 700 le comunità evangeliche che hanno aderito al programma. Groundhog Day in Pennsylvania, il giorno della marmotta, come nel film Ricomincio da capo. Era ieri. Secondo la leggenda, se l'animale, la marmotta, esce dalla tana, vede la sua ombra e torna in letargo, l'inverno durerà ancora 6 settimane. Se invece non riesce a vederla, la primavera arriverà presto. Risultato: è tornata in letargo. Per il bello ci vorranno altre 6 settimane. Madonna e il modello brasiliano Jesus Luz in rotta. Lei 51 anni, lui 23. La cantante dice di non avere più argomenti da condividere con il giovane innamorato. Chi vede? Anzi, chi rivede? L'ex marito Sean Penn. I due sono stati visti a cena insieme qualche settimana fa in un ristorante a New York. Ed eccoci alla canzone del giorno. Grande sfida in famiglia ai prossimi premi Oscar. Avatar di James Cameron e The Hurt Locker della sua ex moglie Catherine Bigelow hanno ricevuto entrambi 9 nomination per gli Oscar che si terranno il prossimo 7 marzo a Los Angeles. Nella categoria miglior regia, insieme a Cameron e Bigelow, ci sono Quentin Tarantino per Bastardi senza gloria, Lee Daniels per Precious e Jason Reitman per Fra le nuvole, grande Hollywood. Dunque, per oggi abbiamo scelto per voi Hooray for Hollywood, interpretata dalla mitica Doris Day. Hooray for Hollywood, that screwy ballyhooey Hollywood, where any office boy or young mechanic can be a panic with just a good-looking pan. And any barmaid can be a star maid if she dances with or without a fan. Hooray for Hollywood, where you're terrific if you're even good, where anyone at all from TV's Lassie to Monroe's Chassie is equally undisturbed. Go out and try your luck, you might be Donald Duck. Hooray for Hollywood. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.